It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Giovedì 9 dicembre, bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Dal buongiorno anche ad Antonella, sempre qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Oggi non partiamo subito con la casellina dell'avvento per prepararci alle feste, per inserire notizie sul carcere, sulla città, la useremo dopo, ma c'è un motivo, perché la notizia di oggi parte da Padova, l'alta pasticceria dei detenuti che fa risparmiare lo Stato. Lo leggo dall'inchiesta a firma di Marco Fattorini, perché forse molti di voi lo sanno, preparandoci un po' alle festività, tra i migliori dolci, ecco, e anche panettoni artigianali italiani, c'è quello preparato dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Infatti la pasticceria Giotto, situata all'interno della prigione, dà una seconda possibilità a persone recluse che, oltre a essere assunti con contratti regolari, sfornano dolci davvero di prima qualità. E tra questi dolci, come dicevo, c'è il famoso panettone Giotto, che prevede, pensate voi, 20 ore di lievitazione e 9 gusti diversi. L'ultimo arrivato è il gusto gianduia e amarena, ma ce ne sono anche altri, per esempio quello al moscato kabir, oppure fichi e cioccolato. Si tratta di uno dei migliori panettoni artigianali italiani a essere prodotto in carcere, premiato addirittura dal Gambero Rosso, mangiato da Papa Francesco e venduto dalle grandi aziende, e si vende in 240 negozi. Veramente fanno gola questi panettoni. Però prima di arrivare agli scaffali sicuramente dovranno passare attraverso i cancelli di ferro, i metal detector, sono sempre cose che insomma vengono dal carcere. Eh sì Antonella, dici bene, perché il contesto di tutta questa iniziativa, come dicevo, è il carcere, il Due Palazzi di Padova, un casermone grigio con le sbarre rosse che ospita 500 detenuti condannati in via definitiva. E proprio qui nel 2005 la cooperativa Work Crossing ha deciso di trasferire il suo laboratorio di alta pasticceria ed è in questo modo che è nata Giotto. Il presidente Matteo Marchetto ha detto che si sono buttati in qualche modo, non sapevano che cosa avrebbero trovato, hanno offerto lavoro ai detenuti con regolare contratto e la loro non è una iniziativa di assistenzialismo, ma è stare sul mercato e comunque fare concorrenza. Le paure sono state molte fin dall'inizio, ma alla fine ce l'hanno fatta a creare lavoro in condizioni difficili. Caterina, prima di tutto io suggerirei di acquistare un panettone se c'è modo. E poi ti volevo chiedere, dopo 17 anni e decine di migliaia di panettoni, si può dire che la scommessa in qualche modo sia stata già vinta, no? Beh sì, effettivamente c'è molta contentezza per questa iniziativa, che per l'appunto non è di solidarietà o assistenzialismo, ma è proprio dare lavoro con contratto alle persone assunte, e oggi la pasticceria prevede un'assunzione di 46 detenuti coordinati da 4 maestri pasticceri. Sfornano biscotti, torte, gelati, focacce, le colombe anche pasquali, si fa tutto dietro le sbarre, produzione, confezionamento e logistica. E quindi è in qualche modo qui le sbarre umane carcerarie si abbattono a vicenda, ci sono ergastolani, uomini condannati a pene lunghissime, capita che tra una sac à poche e una spatola un boss di mafia debba imparare il mestiere da uno scippatore, per esempio, si maneggiano coltelli, si instaurano anche rapporti di fiducia. Ma il lieto fine però non è quello che ci si aspetterebbe, devo essere onesta. Il lavoro in carcere rappresenta certo uno dei pilastri della rieducazione dei condannati ed è un investimento sulla sicurezza del paese. Abbatte, tante volte l'abbiamo detto, la recidiva dal 70 al 5% e fa risparmiare un mucchio di soldi allo Stato. E ogni punto di recidiva, pensate, guadagnato risponde a 40 milioni di euro per lo Stato. Eppure oggi in Italia solo il 4% dei detenuti lavora per imprese e cooperative ed è veramente una percentuale minima, nonostante il successo di esperienze come quella di Giotto, che ora qui vi racconto aprendo la casellina dell'avvento di oggi. I pasticceri del carcere di Padova raccontano il loro lavoro. Ascoltateli e a tra pochissimo, e dopo ci ascoltiamo un pezzettino della canzone Soul Man di Sam e Dave, e ci rivediamo tra poco. Lavoro da quasi 6 anni, e cosa faccio? Pasticcere? Cosa si può fare in pasticceria? In confezione dei panettoni, adesso in questo momento noi facciamo confezione dei panettoni per Natale. Tanto è una bella esperienza, che come lavoro a me piace. Ho imparato un mestiere e può darsi una volta uscito mi servirà. Un lavoro eccezionale, un mestiere da riscoprire fino al fondo, perché in un domani questo mestiere qua mi darà qualcosa, frutto del buono, insomma, ecco. È importante perché ci teniamo impegnati, poi c'è un lavoro che uno ha uno stipendio, è molto importante perché io purtroppo ho una pena lunga e quindi mi tiene le giornate impegnate moltissimo qua, no? Uno non sta a pensare tanti problemi, tante cose che ci sono. E la possibilità di lavorare qua in carcere, due palazzi, è tutto, secondo me è tutta la possibilità. C'è anche scuola e cose, però il lavoro è importante. Sia di guadagnare, ma anche qualcuno come noi qua che prendiamo anche un mestiere da noi. Niente, è un'esperienza bellissima. Magari tutti avessero la possibilità di scendere, di lavorare, di potersi mantenere, perché è comunque un bel posto, bella gente. Io mi trovo bene. I nostri panettoni sono i migliori al mondo, cioè li faccio io per forza. È un prodotto genuino, artigianale, fatto con i sani criteri, e dà soddisfazione. E rieccovi, bentornati dopo il video e la pausa musicale. Siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Antonella, apriamo una finestra sull'Africa perché c'è una notizia che riguarda i nostri diritti civili, in particolare la questione delle persone LGBT+, che sono accolte incredibilmente in Africa. Raccontaci. Caterina, ti racconto una storia che è esemplare, ed è la storia di un ragazzo che canta, che fa gospel, e che dice che quando ha rivelato la sua omosessualità, il popolare cantante ruandese Albert Nabonibo ha perso tutto, da un giorno all'altro ha perso tutto, lavoro, amici, famiglia, cacciato dalla sua parrocchia, ha però trovato un'accoglienza inaspettata in una chiesa evangelica di Kigali. E infatti da diversi anni la Chiesa di Dio in Africa del Ruanda, la cosiddetta EDAR, manifesta pubblicamente la sua apertura alle persone LGBTQ+, sfidando fondamentalmente il conservatorismo generale. Ma Antonella, non mi pare però che l'omosessualità sia punita come reato in Ruanda. E infatti hai ragione, perché l'omosessualità in Ruanda non è un reato, ma le persone gay, lesbiche e transessuali sono spesso vittime di discriminazioni, vengono licenziate, rinnegate dai loro affetti, private delle cure mediche, addirittura picchiate. E Albert Nabonibo lo ha sperimentato sulla sua pelle proprio nel 2019, quando durante un'intervista ha dichiarato di essere gay, quindi ha fatto outing. Lui dice che prima mi invitavano a cantare in occasione di eventi cristiani in chiesa, molte persone amavano la mia musica, ma poi quando ho fatto outing tutto è cambiato. Lo racconta proprio lui, il musicista gospel che ha meno di 40 anni e ha perso gli amici. La maggior parte dei suoi familiari non gli parla più. Poi un giorno, per fortuna, incontra la chiesa EDAR, il pastore, che si chiama Jean de Dieu Uwiragie, e che sostiene un po' con la causa degli LGBTQ+, e 4 anni fa assume la direzione della sua chiesa e decide proprio di aprire le porte alla comunità. Perché tutto questo? Lui dice che si è convinto che fosse necessario contrastare le opinioni conservatrici della chiesa e coinvolgere le persone LGBTQ+, proprio perché molti di loro soffrivano e rimanevano abbandonati fuori dal contesto religioso. Ma la sua scelta di questa persona ha fatto tanto scalpore, vero? Ha girato un po' questa notizia. Eh sì, ma pensa che all'inizio molti fedeli lasciarono la chiesa, immaginati, consideravano la sua scelta un abominio. I pastori delle altre chiese, tra l'altro, hanno dichiarato che Uwiragie era posseduto dal demonio e su di lui si era abbattuta una pioggia di insulti da parte dei fedeli, ma anche appunto da perfetti sconosciuti. Insomma, molti non hanno apprezzato questa decisione. Oggi l'EDAR ha 2 pastori omosessuali e una comunità composta da 200 fedeli, di cui la maggioranza si dichiara eterosessuale. E poi dice uno dei pastori omosessuali, che si chiama Seleman Nizeyamana, di essere stato maltrattato e osteggiato dagli altri pastori ruandesi perché avevano paura di quello che appunto rappresentava questa esperienza e anche la sua vocazione. Però poi aggiunge: hanno distorto la Bibbia per dare l'impressione che Dio ci detesti. Ma perché mai Dio dovrebbe detestare ciò che ha creato? E la domanda ci sembra più che lecita. C'è da dire che il Ruanda è uno dei paesi africani che nel 2011 ha firmato una dichiarazione congiunta delle Nazioni Unite per condannare la violenza contro le persone LGBTQ+. Ma è un passo avanti, tuttavia ancora le stigmatizzazioni e gli atti di violenza sono diffusi, vero? L'iniziativa per lo sviluppo della salute, che è un'organizzazione senza scopo di lucro di Kigali, ha preso in esame 36 casi di presunte violazioni dei diritti umani contro le persone LGBTQ+, commessi nella capitale del Ruanda nel 2019. Pensa che le vittime di abusi in generale, non soltanto in Ruanda ovviamente, sporgono raramente denuncia perché temono di essere ulteriormente umiliate dalla polizia e pensano che difficilmente le denunce avranno un seguito. E questo lo spiega appunto il direttore di questa iniziativa per lo sviluppo della salute. L'iniziativa per lo sviluppo della salute e una coalizione di ONG hanno fatto poi pressione sul governo affinché introduca leggi che proteggano appunto le persone LGBTQ+. dagli arresti ovviamente e anche dalle detenzioni arbitrarie che purtroppo ci sono. E il reverendo Uwiragie ha organizzato anche un corso di formazione antidiscriminazione destinato ad altri responsabili della Chiesa e anche a medici e infermieri, e questo è molto importante. E in più bisogna dire che non abbandona mai il suo ottimismo, dice: le persone hanno bisogno di tempo per cambiare le proprie convinzioni. Mi sembra che lentamente stiano diventando tutti più tolleranti e noi ce lo auguriamo vivamente. Ma abbiamo appena parlato di Albert Nabonibo, la persona che ha subito questa ingiustizia e che non è stato più chiamato a cantare, però abbiamo trovato invece una sua interpretazione. La canzone si chiama Sogongera, ascoltiamo Albert Nabonibo e dopo seguirà ancora l'intervista a Susanna Marietti, la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Rieccoci a Liberi Dentro e Radio TV e ritorniamo ad incontrare Susanna Marietti, la coordinatrice nazionale di Antigone, che ci ha raccontato tante cose in questi ultimi due giorni. Ci ha parlato del carcere di Torino, di quello che sta succedendo, di un futuro sperabile e anche delle REMS. Appunto, abbiamo toccato questo argomento proprio ieri. E oggi però, Susanna, prima di tutto buongiorno, bentornata. Buongiorno. Allora, oggi io vorrei toccare tutt'altro argomento, che è il tema appunto dell'ergastolo ostativo, perché molte persone si chiedono: ma che cos'è questo ergastolo ostativo? Cioè, come si diversifica dall'ergastolo? Ci dai questa spiegazione, gentilmente? Dunque, il nostro codice penale, diciamo, prevede alcune pene che sono fondamentalmente, ora non andiamo nelle cose troppo sofisticate, le pene principali sono ovviamente la reclusione, che è il trascorrere un certo periodo di tempo, più o meno lungo, ma un tempo determinato con un inizio e una fine, in una certa porzione di spazio, che è il carcere, questa è la reclusione, le pene pecuniarie, e l'ergastolo, che è in teoria entrare in un carcere fino al, non si sa, cioè fino al momento della morte, quindi potrebbe essere che tu ci puoi stare 2 anni, se entri a 96 anni e muori a 98, ci puoi stare 40 anni e via dicendo. E questa pena però non è necessariamente eterna, perché sempre il nostro codice penale prevede l'istituto della liberazione condizionale, ovvero prevede che nel caso in cui tu sia stato condannato alla pena dell'ergastolo, espiati 26 anni di pena, se a partire, diciamo, dall'espiazione di 26 anni di pena, meno se andiamo a contare gli sconti dei 45 giorni a semestre per buona condotta, se ti sei sempre comportato bene e il magistrato decide che puoi averla, puoi accedere a questo istituto, per cui sarai per i primi anni sotto alcune misure di controllo e poi definitivamente libero. Cosa succede? Che negli anni 90, a seguito della mafia stragista, delle stragi che ci sono state nei primi anni di quel decennio, si sono prese alcune misure, tra cui si è introdotto nell'ordinamento penitenziario un articolo che è il 4 bis, che dice che chi si è macchiato di alcuni reati che erano fondamentalmente mafia e terrorismo, poi negli anni il 4 bis si è arricchito di una serie di altri reati anche piuttosto eterogenei, come la pedopornografia, la tratta, reati per carità gravissimi, ma diciamo l'idea di questo articolo era che, essendo la criminalità organizzata qualcosa di specifico da combattere, non era un reato normale, aveva dei suoi codici, presentava una serie di problemi che altri reati non presentano, tipo il fatto appunto di essere organizzata, segreta, eccetera, e quindi il modo aveva bisogno di strumenti specifici per poter essere combattuta, per esempio isolare la persona dagli altri. Isolare invece il pedopornografo infantile dagli altri ha meno senso, perché che deve fare se... E quindi, diciamo, si diceva in questo articolo che per una serie di reati la persona non poteva accedere a tutti i benefici previsti dalla legge per buona condotta, diciamo, che sono tutte le misure alternative, no? Che noi conosciamo, sappiamo che dopo un certo tot di pena, in Italia esiste quella che si chiama la pena flessibile, cioè il giudice di merito condanna ad una certa quantità di pena, a quel punto arriva il giudice di sorveglianza che la gestisce e può piano piano farti accedere a pezzetti di libertà, erodere quella pena. È proprio scritto nella legge, non è un fatto, non esiste la certezza della pena, no, è proprio che la pena certa è fatta così in Italia, no? E quindi puoi cominciare a uscire di giorno dal carcere, a lavorare fuori, eccetera. Tra le varie cose che puoi fare, puoi anche accedere alla liberazione condizionale. L'articolo 4 bis dice che per questa categoria di reati, questo elenco di reati, puoi accedere ai benefici di legge solamente se collabori con la giustizia, cioè fondamentalmente se fai i nomi, diciamo, dei tuoi complici. Questo significa, nel caso dell'ergastolano, che non uscirà più dal carcere, cioè a meno di collaborare, mentre nel caso della pena a tempo significa che non avrà il permesso premio, non avrà la misura alternativa nell'ultima parte della pena, eccetera. Nel caso dell'ergastolano significa che non uscirà più dal carcere. Ostativo vuol dire che osta alla concessione di benefici. Quindi l'ergastolano ostativo, a meno che non collabora con la giustizia, è destinato a morire in carcere. Bene, e senti, la nuova riforma come si posiziona rispetto all'ergastolo ostativo? Ancora non c'è, la stanno discutendo in Parlamento, però ci sono, diciamo, i presupposti della riforma, nel senso che a un certo punto, prima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poi la Corte Costituzionale, in sentenze che riguardavano una i permessi premio, l'altra la liberazione condizionale, ma comunque il concetto, diciamo, era lo stesso, ha detto che se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, questo percorso non può che essere individuale, perché per rieducarti ognuno ha bisogno di cose diverse, cioè nel senso tu devi vedere il mio percorso, cioè quanto io mi sono lasciata rieducare, reinserire nella società, quanto non l'ho fatto. Non ci può essere un automatismo che vale per tutti. Allora, questa preclusione, per cui secondo la tipologia del reato e non secondo il tuo percorso individuale, hai fatto quella tipologia del reato, sei sottoposto a questo limite, devi per forza collaborare, così non va bene. E l'automatismo che ti dice l'unico modo per dimostrare che sei, appunto, che così deve valere per tutti, l'unico modo per dimostrare che davvero ti vuoi rieducare, ti sei affrancato dalla criminalità organizzata, è quello di fare i nomi dei tuoi complici, ha detto la Corte non è vero, perché una persona potrebbe scegliere di non fare i nomi dei complici per mille altri motivi, cioè non solo perché ancora vuol dire che allora fa parte della consorteria mafiosa, ma per esempio perché ha paura di una ritorsione nei confronti dei familiari fuori, per esempio. Quindi ha detto, non è che ha detto cosa deve fare il legislatore, ha detto solo che deve introdurre un meccanismo che permetta una valutazione caso per caso e non un automatismo. E la Corte Costituzionale ha lasciato all'Italia, insomma al suo paese, ha lasciato al legislatore, al Parlamento, un anno di tempo per trovare uno stratagemma ordinamentale che facesse sì che, in modo da rispondere a questa esigenza, quindi riformare il 4 bis in questa direzione. E il Parlamento ci sta lavorando. Per adesso le proposte di legge che sono in commissione non sembrano proprio andare in quella direzione, nel senso che hanno forse introdotto un male peggiore di quello che dovevano sostituire, perché sembrano dire che va bene, allora non serve per forza che tu collabori con la giustizia e che fai i nomi, però la persona che richiede il beneficio deve lui dimostrare di non avere più a che fare con la mafia, ma non solo, anche che non ci rientrerà mai più. Ora, per una persona che magari sta in carcere da 20-25 anni non è facile dimostrare che prove ti porto, cioè al limite il contrario, deve essere il giudice che dimostra che c'è un legame facendo le indagini con la polizia giudiziaria, eccetera. Quindi vedremo come si sbroglierà questa cosa. Va bene, grazie mille Susanna, e ringraziamo tutti per l'ascolto e restate con noi perché continuiamo. E Susanna, noi ci vediamo domani, grazie. Senz'altro, grazie a te. E rieccovi, bentornati, siamo sempre saluti di fine puntata in cui vi annunciamo le nostre rubriche a seguire. Abbiamo le pillole di Antigone con un rapporto sul reparto sé stante e le articolazioni psichiatriche. E poi la pillola a cura della comunità educante per i carcerati, il CEC, che ci racconta la storia di Antonio, il racconto per l'appunto di una persona che ha svolto un percorso per comprendere se stesso, oltre la menzogna e il nascondimento. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese che è qui con me, Enea Flacco al montaggio delle nostre puntate e la nostra tirocinante Diana Bota. A domani e grazie a tutte e tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.